Alisoni, rompeva i coglioni, tutti i giorni porta ritardo, tutti i giorni potrebbe evitarlo, ormai è noto, lo sanno tutti, che alle 6:30 ci manca l'aria, senza Cruciani, senza Parenzo, insomma senza la zanzara, c'è chi rompe i coglioni per noia, chi li rompe per professione, Barisoni nell'uno e nell'altro, lui li rompe per passione. Ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto. Io non ho capito una ci cosa. Ci vediamo in tribunale, cosa c'entra? Pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. Maledetto. Maledetto, che tu sia maledetto, maledetto per quello che hai fatto, schifoso. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Ho avuto un coito parenziano come Lotta, Parenzo! Pronto? Buonasera, Cruciani e Parenzo. Allora, voi siete a metà strada tra i giornalisti e i buffoni di corte. Io sono senza moglie, senza fidanzata, non ho donne, non sono bello. E il dottore stesso mi dice, senti, devi andarti a fare una bella scopata per scaricare la canna che ti fa bene. Io chiedo a Parenzo, dove vado? Dove cazzo vado? Se io devo scaricare la canna, dimmi solo, dove devo andare? Parenzo, di qualcosa. Pronto? Ciao Giuseppe, sono io, Fabrizio da Milano, numero uno. Grande, sei il numero uno, Giuseppe. C'è anche lui, ehi, Buscetta, ti ho sentito. Ciao, Parenzo, Buscetta dei poveri, non mi riconosci? Tu ormai hai raggiunto il livello Librandi. Ecco, tu quando una persona raggiunge il livello Librandi è l'offesa peggiore che possa dire a una persona. Ecco, tu hai raggiunto il livello Librandi. Te, Oliviero Toscano, quell'altro minchione. Guarda, a New York puoi andare giusto te e Linus. Andate a correre, va. Andate a correre, te e Linus. C'è anche lui, ehi, Buscetta, ti ho sentito. Ciao, Parenzo, Buscetta dei poveri, non mi riconosci. Uè, nano di merda! Ma io ragazzi ho appena detto una cosa, ieri ho fatto una dichiarazione, caro Parenzo, che in Sicilia fossi stato messo di fronte a una scelta, non voto in Sicilia perché voto qui a Milano, ho detto che avrei votato sì. 5 Stelle, che cosa mi combinano questi signori qua dei 5 Stelle? Uno che dovrebbe fare l'assessore, pare, un ingegnere che dovrebbe fare l'assessore, sì. Dice che brucerebbe vivo uno del, esatto, Partito Democratico. Dai ragazzi, non potete tradirmi, capito, subito così, non potete tradirmi subito, hai così, capito, dai, hai su. Capito. Allora cerchiamo, capito, di far capire, hai capito che... chi sono, ma hai, no, capito, ma chi sono adesso, questo qua non esageriamo, è uno che deve fare l'assessore, no, forse, hai capito, uno che deve fare l'assessore che dice che vuole bruciare vivo un altro, un competitor elettorale, hai capito chi sono, hai capito, hai, allora, capito? Questo signore si chiama Angelo Parisi, grazie, comunque fammelo dire, grazie alla regia per aver messo come al solito nella copertina le mie infelici espressioni di ieri, quindi mi dispiace, io non hai combattuto come un leone, ma che infelice, comunque, ma chiedo infelice, scusa, andiamo avanti, ma chiedi andiamo scusa avanti, a che cosa, scusa, no, non chiedo scusa ai radioascoltatori, non a quell'imbecille che ha telefonato, ovviamente, non a, allora ragazzi, lì, allora, non di a chi stiamo parlando, non ricordo neanche il nome, sì, no, si chiama Masocco, sì. Stiamo parlando di un signore che si chiama Angelo Parisi, il quale dovrebbe fare l'assessore dei 5 Stelle nel caso di vittoria del signor Cancelleri. Che cosa ha scritto? Rosato, che è quello che da cui prende il nome la legge elettorale, un deputato del Partito Democratico. Rosato, facciamo un patto: se questa legge sarà cassata dalla Consulta, noi ti bruceremo vivo, ok? Beh, amico mio, adesso le scuse, poi la cosa che mi fa incazzare sono le scuse. Cosa cazzo c'è da scusarti? Non c'è nulla di cui scusarci, no? Le mie parole sono state eccessive. Sono le tue parole. Certo, non è che lo volevi bruciare vivo, ma hai scritto ti bruceremo vivo. Dunque non c'è da scusarsi, c'è da dire semplicemente una cosa. Io non posso più fare l'assessore se dovessero vincere i 5 Stelle, punto e basta. Pare che sia molto anche bene. Consulente alla regione, si ritirasse pure dalla consulenza, punto e basta. Poi dicono che è un eter, cioè uno che odia, uno di quelli che stanno sul web a insultare tutti. In realtà qui risulta che ha dato dell'idiota a Giovanni Floris. Vabbè, questo non mi pare una cosa, cioè, così bizzarra, cioè nel senso, chi se è ne molto frega. Grave. Ma no, molto non grave. È grave questo. No, è molto grave. Molto è grave. Dato del cretino, è cretino a un altro, a Giannini. Vabbè, d'accordo, ma che c'entra? Questo è molto normale. Grave anche questo. Massimo ma Giannini, grave. Bravissimo. Ma che vuol dire? Uno non può molto dare del grave. Cretino. Molto grave. Ma non è come dire ti bruceremo no, vivo. Mi auguro no. Che questi due. No, no, no, mi auguro che i due amici, su. Floris e Giannini, impugnino lo strumento della legge. Ma ancora? Ma tu vorresti un mondo di denunzie? Sì, un mondo di denunzie? Vorresti un mondo di denunzie? No, io dico, se uno è offeso, dello Stato di diritto, in altri paesi c'è la scimitarra, da altre parti si spara, qui c'è lo Stato di diritto, allora. Cioè ci sono i tribunali, quindi mi auguro che il dottor Massimo Giannini, il dottor Giovanni Floris, amici ma carissimi, adiscano alle aule di tribunale e lo portino in tribunale. Allora, finalmente. Il signor Cancelleri, ripeto, io la cosa che più mi rode il culo è questa, che io ieri ho detto in Sicilia avrei votato per i 5 Stelle. Adesso oggi spunta questo che dice che deve bruciare vivo uno del Partito Democratico, sì. Ma te rendi conto o no? Cancelleri, avanti. È incredibile, la notizia del giorno è un tweet infelice di Angelo Parisi. Lui l'ha già cancellato e si è anche scusato, perché quando si sbaglia si chiede scusa. Ma la cosa che mi fa arrabbiare di più è che i media nazionali lo sbattono in prima pagina proprio nel giorno in cui Berlusconi e Dell'Utri vengono indagati per le stragi di mafia del 93 che riguardano proprio la nostra terra. Vabbè, adesso questo non c'entra un cazzo, la cancelleria, cioè questo non c'entra una mazza. Se uno che deve fare il tuo assessore dice che brucierebbe vivo un avversario politico del Partito Democratico, è normale che se ne parli. Amico mio, scusa, che cazzo c'entra col fatto che sono uscite queste notizie su Berlusconi e Dell'Utri? Dai, su, è ridicolo. È ridicolo, è ridicolo. Di a questo tuo amico, a questo tuo probabile assessore, che non rompesse i coglioni, non farà più l'assessore, perché uno non può fare l'assessore dopo che ha detto che brucierebbe vivo uno di un altro partito. Punto e basta, e si va avanti, e andiamo molto avanti. Bene, dai. Molto bene. Pappalardo, Pappalardo, ancora a quinta colonna. La prima cosa che facciamo, dice, togliamo i vitalizi, il generale Pappalardo. Ancora. Che cosa vuol fare il Movimento Liberazione Italia? Togliere tutti i vitalizi immediatamente. Primo. Secondo. Mi fate parlare, sociale. Avete parlato voi, non parlo io. Parlato. Secondo. Sì. Il parlamentare che va in Parlamento deve lavorare gratuitamente. Lui deve lavorare gratuitamente, se no non lo chiamiamo onorevole. Signor Pappalardo col vitalizio che dice, ma no, che, ma guarda, però, che dice che ha rinunciato poi adesso. Ma è un ma è una cosa folle. Ma lui che ha preso il vitalizio, ha preso un sacco, ha preso i soldi da parlamentare, adesso vuole che gli altri lavorino gratis. Ma guarda che è una cosa pazzesca, è incredibile, è vergognoso. Tra l'altro c'è una voce lì in sottofondo che dice, c'è uno lì che dice, ma quello è pazzo, infatti. Se lo senti, se rimandi l'audio, io ho colto essere, la voce di uno che dice. Ma potrebbe pazzo, essere Trefiletti, quello della Feder Consumatori, che sta sempre ragione. Fisso a quinta colonna, signor Trefiletti, fisso a quinta colonna, vabbè, e si scanna con Pappalardo, si scanna con Pappalardo. Ora, il motivo c'è, perché agiscono sullo stesso con lo stesso spartito, dunque probabilmente Trefiletti ha paura che Pappalardo gli ruba il mestiere, questa è la sostanza, sentiamo. La verità va detta. Sentiamo. Va dica, detta signor. La verità. Generale, il suo vitalizio lo dia alla povera gente, esatto. Non al suo movimento. Le facciamo avere un sta prendendo IVA. In giro gli italiani. Ha capito? Lei non deve prendere in giro gli italiani. Mi scusi, il vitalizio lo dia a quest'uomo con rispetto alla carica militare. Io non prendo più il vitalizio. Lo do al movimento degli statisti. Deve parlare quest'uomo. Fatelo parlare. Scusate, chi è che lo dà il vitalizio? Ha detto al suo movimento, ma chi se ne frega? Cioè, rinuncia al vitalizio. Ma cosa è incredibile, pure Pappalardo. Abbiamo scoperto, cioè, noi l'abbiamo messo in croce. L'abbiamo messo in croce noi per la prima volta sul vitalizio, perché andava lì a voler arrestare tutti i deputati, tutti i senatori. E a un certo punto gli ho chiesto una volta: scusi, ma lei prende il vitalizio? Cioè, lei fa il Torquemada col vitalizio in tasca. Adesso dice che lo vuole cedere il vitalizio, vuole rinunciare al vitalizio. Ma dai, scontro pazzesco. Bravo. Pappalardo, tre filetti. Ma chi lo paga questo? Lei quanto prende al mese? Di Maio è un artista, direttore. Lei prende 30.000 euro al mese. Lei prende 30.000 euro al mese. Si vergogni. Lei prende 30.000 euro al mese. Si vergogni. Si vergogni. Lei prende 30.000 euro al mese. Lui prende 30.000 euro al mese. Quest'uomo prende 30.000 euro al mese. Quest'uomo. Lei prende 30.000 euro al mese. No, si vergogna Paolo. Come si vergogni. Si vergogni. Comunque, ragazzi, io non ho mai visto una cosa del genere. La quinta colonna, Pappalardo contro tre filetti. Una cosa proprio che gli fa una pippa. C'è, cioè, la guerra dei mostri. Gli fa una pippa. C'è, cioè, i programmi americani, quelli sui mostri. Gli fanno una pippa del debbio. È spettacolare. Ancora, ancora. Bisogna che siamo uguali a voi. Non dobbiamo salvare, signora, il sistema Italia. Signora, io sono Italia. Entrato in azione per cacciarli via. Signora, io sono entrato in azione per salvare la povera gente. Non sono qui a prenderla in giro. Io non sono un qualificato all'arrabbazzo, va bene? Signora, io sono venuto a salvare la gente. Ha capito, signora? Sono venuto a salvare la povera gente. Non sono venuto a giocare. Io non vengo a giocare del tempio. Non vengo a giocare. Crucià, tu parli di Laurentiis, pulisci la bocca e accirate, lota. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Dinamite tanfalasse in tocula a te, Parenzo. Non che ci dice a Cruciani che mette la dinamite sotto le istituzioni. Ma quale istituzione abbiamo in Italia? Che istituzioni sono? Le istituzioni del cazzo. A dinamite azzeccati in l'antocolo tu e ta fa domani Cruciani, Parenzo. E te metta a correre, maledetto schifoso massone bastardo. Tipico esponente del movimento Five Star Sicilia, caro Parenzo, eh? Tipico esponente. Scusami, ce l'aveva con me questo. Sì. Ce l'aveva con me massone, ha detto, sì, anche. Ha detto anche massone, eh? Sì, ha detto anche massone, massone. Va bene. Allora, nel caso Anna Frank irrompe Povia, caro Parenzo. So che non puoi sopportare. Non puoi sopportare quello che sta dicendo. No, non voglio sentirlo. No, non voglio neanche sapere che cosa ha detto. Guarda, mi era sfuggita, per fortuna. Tutti non i media voglio parlano solo dei morti. No, senti, tutti i media parlano solo dei morti del nazismo. Sapete che cos'è che mi infastidisce? Che se ne sia parlato e se ne parli a suon battuto, a livello mediatico, massicciamente, come se nella storia ci fossero stati solo quei poveri martiri ebrei del nazismo. E tutti i media in fila indiana a parlarne, tutti gli opinionisti a parlarne, addirittura a fare proposte di portare quei 4-5 tifosi laziali che hanno fatto questo gesto, di portarli a vedere i campi di concentramento, di farli studiare, di imporgli un'informazione. Tutto giusto, potrebbe essere giusto, per carità, però cavolo, c'è un grande potere dietro ai media se si parla per giorni e giorni di questa cosa qui. In uno spettacolo gay, sentite, Povia. Per esempio, uno spettacolo del Cassero, che è una comunità LGBT sarebbe lesbiche, gay, bisessuali e trans, di Bologna, ha fatto uno spettacolo che si chiama Venerdì 13, che, mamma mia, durante lo spettacolo vedi addirittura un attore che infila il crocifisso nel sedere ad un altro attore. Fai proprio un Google su internet, scrivi Venerdì 13 e vedrai uno che infila la croce nel sedere di un altro attore. Per questa cosa nessuno ha detto nulla, questa è una cosa bruttissima, tra l'altro è anche... Ma cosa c'entra adesso, Povia? Cosa c'entra uno spettacolo in un posto gay con la questione di Anna Frank? Cosa cazzo c'entra? Cosa, ragazzi, c'entra? Ma ormai delira, cosa ma c'entra? Delira sto Povia. Cosa c'entra? Delira. Cosa c'entra? Delira. Va bene, Carlo da Roma, vai Carlo. Vai Carlo. Oh. Aspetta. Un Che hai fatto? Capito, volevo fare una riflessione a quello che era successo ieri sera. Che è successo ieri sera? È quello che avete chiamato, che già Parenzo ha detto che aveva telefonato, invece l'avete chiamato voi. Sì. Che si è attaccato con Parenzo. Sì, ma so così, allora? Che Parenzo gli ha detto tutte quelle parole, capito? Allora? Quello gli ha detto, no. Quello gli ha detto facciamo un confronto, capito? Quello vive, Parenzo è un miserabile, è uno schifoso. Perché, capito? Anna Frank, chi è sta cazzo d'Anna Frank? No, ha fatto un mondiale, fatto un film. Ecco, ma chi è? Ma una deve conoscere per forza, è un'ebrea. Punto, basta. Vabbè, questo è grave. Merda, punto, no, questo è grave. Questo è, che vuol dire un ebreo di merda? No, non è grave, non è Carlo. Grave. Perché quante volte Parenzo ha detto alla gente: guarda tua moglie dove sta adesso? Ma che c'entra? Cosa c'entra? Carlo verrà. Carlo, presto. La trasmissione non ti sento più. Erano due mesi che non ti sentivo. E perché? Meno male. Ho acceso la radio. Gli ha toccata la madre. Gli volano lui. Guarda tua madre che cazzo di credito ha fatto, non è un laureato, ha fatto un concorso e è diventato il giornalista. Ma che c'è? Ma quale concorso? Ma di che parli? Faceva i pompini a Berlusconi. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Solo ai potenti, lui è calculo, solo ai potenti. Povero Carlo, che gli verrà portato via pure il camion dal povero Carlo. Due, no, solo ma io che c'entro? Ma perché? Sì, anche tu. Come hai fatto con Cotoli, come cavolo si chiama? Ma poi quando mi incazzo... Povero Carlo, l'altro giorno, l'altro che è sabato, domenica, lo sai, l'ho visto, pare sul ponte dei Mussolini. Marco, ci dovresti passare, non c'è diritto a passare sul ponte dei Mussolini, te, capito? L'ho visto l'altro giorno, era sabato, domenica, mi sembra. Era in America, impossibile. Il ginocchio sul ponte dei Mussolini. Era in America, impossibile. No, sabato, domenica, non eri in America, io sto a mangiare 5 stelle, a miserabile. Ma perché, Carlo? Gli portiamo via pure il camion, sai? Ha messo in bocca per la gente, lui ti porto in tribunale, ti porto via tutto, portami via a me qualche cosa. Ma qua. Carlo, io non ho capito una camion. Cosa. Aspetta, ti porto via il camion. Ma Carlo, devi stare. Fate ieri sera da Brino. Sì, dillo che sta trasmissione fa schifo, dillo. Abbassa che mi danno i soldi, è ebreo di merda. Ma che c'entra, Carlo? Cosa c'entra? È impazzito completamente. Roba da pazzo. Adesso denunciamo questo denunciatore. Tu lo sai che io voglio finire questa trasmissione prima o poi con l'esplosione totale. Cioè, con alla fine. Sta già avvenendo, ma no, questa, ma questo questa qua... gente qui deve pagare però per queste cose che dice, perché è incredibile. Questo Ivano Carlo, da Roma, poveretto, dai, Carlo o, da Roma. O è un malato di mente, un disturbato. L'unica attenuante può essere che è un malato di mente. Se non lo è, ci vediamo in tribunale, gli portiamo via il camion. E io non voglio soldi, perché quello che prenderò da queste cause lo devolverò tutto all'associazione Roma, ad esempio. Cioè, io voglio che io adesso faccio causa a questo qua. Ma che me la causa adesso, non costa due nulla, cause. La gente deve saperlo, ma devono avere paura di quello che dicono. Non si può più insultare, deve avere paura di quello che dice. Deve prendere la responsabilità Ivano di quel che Roma, dice. Vai, ha detto delle cose vergognose, verrà condannato, il Ivano, suo camion fermo. Sequestrato. Sì. Ivano, che vuoi, dimmi. Sì, no, guarda che ci stanno certi interventi agghiaccianti veramente, guarda. Dimmi, comunque, Ivano, dimmi, dai, forza. Comunque, no, niente, l'intervento mio, io volevo dire qualcosa sull'assessore presunto siciliano, che, ma a parte che voi due mi insegnate tutti e due che l'insulto non è necessariamente seguito dall'effettuazione di quello che ho capito, dire. Ma se tu vuoi fare l'assessore e dici che vuoi bruciare vivo uno del Partito Democratico, sei un coglione e non puoi più fare l'assessore, punto e basta. Ma quante ne avete detto tutte e due, miei, le cazzate tutte e due, cioè, ma che c'è, io mica faccio l'assessore, amico mio. Sicuramente, Tomato che ha chiamato prima, per esempio, questo andava incarcerato proprio, questo qui, e poi dice c'ha ragione, esatto, Piano che vuole, ma Piano bisogna portarlo un braccio, Piano che vuole cancellarselo dalla faccia della terra il fascismo, forse per me. Però ma che c'entra, scusa, adesso Piano vuole fare un'altra cosa, non è che sono tutti come Carlo. No. Sì, ovviamente. Carlo va punito, però, in base alla legge già esistente. Non lo so se Carlo va punito. Tu vuoi portare in tribunale tutti? Ma lascia, di più, cosa può fare uno di più? Cosa può dire di più matto, oltre a quel che ha detto? Evidentemente è matto questo qui. Comunque, no, vabbè, io il discorso che volevo fare è su quel Angelo Parisi. Se uno dice che vorrebbe da poco un'altra persona, non necessariamente lo fa. Certo, ha detto una stronzata quello che ha detto, ma secondo me ci stanno cose molto, molto, ma molto più gravi, se dicono, tipo il saluto fascista dei Verdini. Ho capito. Pietro Agrigento, vai Pietro. Pietro, dimmi. Sì, buonasera, Cruciani. Dimmi, veloce, dai, dimmi. Sto chiamando in merito ad una dichiarazione che è stata fatta dal signor Parenzo, o comunque abbia fatto intendere dichiarazione, che... mica è Musumeci, dai. No, quello che... allora... comunque fatto intendere che avrebbe... ha avuto il pensiero di votare Musumeci. Vabbè, allora dimmi, dai, forza. Ora, io voglio ricordare al signor Parenzo che la lista Musumeci ha la bellezza di 17 tra indagati e condannati. Se al giorno d'oggi, dopo 30 anni di mala politica, non stiamo attenti a questi dettagli, relativamente parlando, non andremo aspetta, da nessuna parte. Ho capito, Pietro, Carlo! Oh! Carlo. Devo portare via il camion, Parenzo, sì. Mica è mio, un cretino, un imbecille, subito, non è mio, Senti, continua. La signora quella del Cotroibo, che gli dici, la puttana di Cotroibo, che gli dici? Ma che c'entra? Cosa c'entra? Amica sua. Ma io non ho capito che cosa hai chiamato a fare oggi, io questo non ho ancora capito, che cosa hai chiamato a fare? Dell'intervento degli ieri sera, quello c'aveva ragione. Chi cazzo è Anna Frank? Hanno fatto pure il film. Ma perché uno è costretto a conoscere Anna Frank? Avete preso per culo lo Tito. Avete preso per culo lo Tito. Italiani! Spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. Stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e squirti su Cruciani. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Parenzo assomiglia a Rom, senza dubbi né ripensamenti. Sapaeta bella e libera, via dai campi. Servi acqua con le brocche, su tovaglie di pizzi e di merletti. Sapaeta bella e libera, via dai campi. Siamo al top. Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da prese di posizioni del popolo, Brexit, Catalogna e ora vittoria. Parenzo, assumi la cazzo di Rom. È il 30 ottobre, sono le 6:33, mi trovo in Slovenia a Murska Sobota. La mia domanda è, ma Parenzo, assunto sta cazzo di Rom di merda? Dai Parenzo, assumi Zapaeta! Senti un po' Parenzo, siccome ormai sta roba è praticamente assunta, mi stavo domandando, ma come pensiamo di vestirla? Cioè, come la introduci nell'ambito familiare? La lasci nel Rom style, no? Con quei vestitini un po' estivi, morbidi, col calzino nella ciabatta, o la mettiamo in divisa, severissima, nera, eh? Fammi sapere, eh? Abbraccio. Amici miei, ci sono preti in giro per l'Italia? Preciso solo che non esistono, che le divise nere, non so chi le mette, sono di cattivo gusto. Eventualmente le divise sono a righe bianche e blu e hanno un grembiule bianco davanti. Quelle nere, poi c'è una divisa da giorno e una da sera. Però non spreco, diciamo, tempo a spiegare ai miserabili cosa vuol dire la divisa del personale di servizio, perché mi sembra tempo sprecato. Andiamo avanti. dai Parenzo, 2 ore al giorno, l'assumi in prova, poi magari scopre che rispetto a quella che stava lì da 8 anni, la Sabaeta è molto meglio, magari cucina meglio, è anche più affabile, più gentile. Viva la Sabaeta, porca troia. Tra l'altro Sabaeta, che ieri ha detto una cosa molto grave, vorrei che fosse riproposta dalla regia assolutamente. Cioè ha detto, tra le specialità di cui si potrebbe occupare in casa Parenzo, cioè anche la cura dei bambini, c'erano molti nipoti intorno alla signora Sabaeta nel campo di Castelromano, signora Sabaeta che oggi è partita alla volta della Bosnia, dunque tornerà, ne riparleremo di questa vicenda tra qualche giorno. Comunque resta viva l'attenzione, perché 10.155 firme, il grande gesto che Parenzo il buonista dovrebbe fare nei confronti della comunità rom direi italiana, se no addirittura europea. Ripeto, Sabaeta ha detto una cosa grave, vorrei porre l'attenzione anche dei media, del mondo della comunicazione, questa cosa gravissima che ha detto. Cioè, lei, e noi dobbiamo crederle, è una di quelle buone del campo, cioè la Sabaeta è una di quelle del campo Rom di Castelromano che non fa parte della delinquenza organizzata dentro il campo Rom. E ha detto, se io dovessi mai denunciare questi delinquenti all'interno del campo Rom, verrei bruciata nella mia roulotte, nel mio camper, quello che è. Perché non denunci i delinquenti? Io non posso denunciare, dopo sarà bruciato. Come, ti bruciano? Sarò bruciato dentro il mio container, perché c'è qua tante razze, non è solo bosniaci, mia famiglia, guerra, c'è tra tante di loro. Razze. Devi salvarla. Che io non posso neanche parlare con loro. Ma io non ho capito, vedo ancora questo Carlo collegato. Che vuole ancora Carlo? Non gli è bastata ancora. Ancora non Carlo collegato, è rimasto non lì è collegato. Bastato. Carlo? Non gli è bastata. Bastato. Ma che vuoi ancora? Ancora non tu? Io non voglio un cazzo, siete voi che me rompete i coglioni. Io non voglio un cazzo da voi. Non gli è bastata ancora. Sta zitto, merda. Adesso non gli è bastato. Hai insultato un'altra volta. Ma chi è stato? Ma chi è insultato? Non gli è bastato. Stai zitto. Non gli è bastato ancora sto animale. Il cambio. Non gli è bastato. No, Carlo, devi stare zitto, Crucia. Fai più schifo le parenti. Ma io che c'entro adesso? Io cosa c'entro? Tutti versati e nascondiamo la mano. Ma come fate? Ma sei un imbecille! Sei un imbecille! Una persona di 70 anni e dici: ma scopri con tuo marito? Ma diresti allora... a tuo padre e a tua madre? Ma diresti a tua sorella? Imbecille! Se quello ieri sera gli ha detto: solo per di tuo valore ti levo tutto! Mettiamo le cose in chiaro, Carlo. Mettiamo fermi tutti. Allora, Carlo, io voglio capire una cosa. Tu hai chiamato perché sei rimasto, come dire, colpito da quello che ha detto ieri sera Parenzo a quel tizio che si chiama Giorgio Masocco. Ma quello che ha scritto questo Masocco su Anna Frank, che vuol dire? È che l'ha scritto Parenzo, l'ha scritto lui. Noi l'abbiamo attaccato su questo. Ma chi è Anna Frank? Ma che tutti sono costretti a sapere. Ma io alzo di adesso quattro belle merda. Carlo è uno che più volte in questa trasmissione si è proclamato fascista e anche un po' nazista, giusto Carlo? Ho capito perché c'è quel bello imbecille che parla. Allora, più volte ti sei, a parte che non capisco perché ti sei proclamato fascista, giusto? Sì, Mussolini, sì, è anche un po' nazista. Mussolini, non cominciano per i coglioni. È anche un po' nazista. Quello che ha telefonato prima, sempre che gliel'ha perdito. no, i mussolinari, no, i fascisti, in galera, in galera. Voglio vederti adesso, in faccia adesso, in tribunale. In Germania, in Germania, il partito di destra, molto voglio di destra. Voglio vederti in faccia. Attacci, magari, in faccia. Magari. Guarda, io vado allo stadio, in vado. In faccia, vado, in tribunale, ti voglio vedere, dai, in dai, faccia. Io ho capito, Carlo, io dico una cosa, tu ti sei proclamato anche una... ti sei proclamato più volte anche nazista, o sbaglio? Nazista, che bordi Mussolini, quando Mussolini ha fatto alleato con Hitler, siamo diventati tutti nazisti. Però ma che ci Mussolini siamo diventati, chi, cosa? Mussolini ha fatto tante cose, e anche Hitler, anche Hitler, anche Hitler ha fatto delle cose, ma non giù l'ha fatto, indovinare, l'ha fatto sbagliare, ha ammazzato 6 milioni di persone, signor Hitler. Oh madonna, ora ricominciamo pure il comunismo, ha ammazzato le persone, ma che c'entra? Pure le crociate, il Papa, le crociate hanno fatto la strage, che cazzo di storia, basta, ma che non c'è i coglioni in Sebrecia, ce la famo più, c'è lo piedi ogni volta. Ma tu che fai di mestiere, Francia. Carlo, di mestiere che fai, camionista, no? Ma chi senti? O senti il camion? Com'è che fa? Com'è che fa? Mamma mia. Il camion. Come fa? Il camion. Come fa? Come fa? Fammi sentire! Che cazzo? Ma scusa, speriamo, ma che sei ora. Fermo oppure sei stai sto camminando, sto camminando. Okay. Dove sei? In che località? La 1. Direzione per allora, la gata. Appello alla polizia di Stato sulla A1 per cortesia. Bloccate un camion che sta suonando. Bloccate sulla A1 il camion che sta suonando. State attenti a Palazzo, se tira fuori la capoccia dal finestrino si vede le corna. Perché ti sei non scaldato così? Io voglio un confronto intellettuale con te, non me ne frega niente di Anna Franca, facciamo ti porto in tribunale, diremo tutto, ma vaffanculo. Ci vediamo in tribunale con te, voglio vederti in faccia, io te e il diario di Anna Franca, ti voglio vedere in faccia. Voglio vederti in faccia. Io sono uno che lavora, ma che lavora? Tu sei un poveretto. Ti voglio vedere in faccia. Dove stai? Ti voglio vedere in faccia. Alla Spa. Certo. New York. Magari ma studiassi un po' di più, magari amico, leggessi qualcosa, brutto ignorante, brutto schifoso, schifoso ignorante. Ignorante. Ma quello è un lavoro, presidente. L'hai ascoltato allora, l'hai ascoltato, bravo. L'hai ascoltato, bravo. Ma io poi scusa in tutto questo tribunale, ci vediamo, io sai guarda, non vedo l'ora di vedere la tua faccia in tribunale, ti voglio vedere in faccia. Ma io ti giuro, guarda, posso dirti una cosa, fosse l'ultima cosa che faccio in vita mia, io ti giuro che ti voglio vedere, me lo devi dire in faccia, in tribunale. Fermi. Ma scusami, Carlo. Fermi tutti. Io voglio capire una cosa, Carlo. Non ho capito che sei l'avvocato di quello di ieri sera? Sei l'avvocato? E allora che te frega? Ma che me ne frega? Non ne posso sentire queste cose ogni volta Fermi! Così lo capisci finalmente. Oggi sarò qui a Montecitorio. Se tutti se avete coraggio, scendete a parlare con me. Diritti e doveri, 1.000 euro. Vergogna! E io parlo con la generale di contributi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Oracle Cloud Show. Le storie di successo Oracle danno spettacolo a Milano giovedì 9 novembre. La Zanzara. Oh, senti, il camion. Come fa, Edrombe? Come fa? Ma quando invece 10 rotti anni fa a Livorno venne alzato lo striscione, Tito ce lo ha insegnato, la foiba non è reato, cos'è successo? È stata chiusa la curva? Ma nemmeno per scherzo. Sempre due pesi e due misure, caro Crux. Cruciani, ci sono le facce di Stalin nella curva del Livorno, mandate a fanculo, zecche di merda. Fasci al muro, tutti. Fasci di merda al muro, in Siberia, nelle miniere. Dovete morire, fascisti di merda. Ormai non riesco più a capire quando mi interrompi su una cosa o no, perché stavo raccontando di alcuni preti in giro per l'Italia che pensano che la festa di Halloween sia una festa ispirata dal diavolo, e siccome sono preoccupato dal fatto che mia figlia stasera andrà ad una festa di Halloween, e leggo di preti esorcisti che dicono no, questa festa è ispirata dal diavolo, i bambini non devono partecipare. Ragazzi, ma quale diavolo? Ma di cosa parlate? I preti esorcisti o altri preti in giro per l'Italia che fanno delle feste contro Halloween o invitano i bambini a non partecipare alle feste? Ma di che parliamo, dai? Allora, 7 anni e 4 mesi per quelli che hanno rapinato e seviziato Rosina e il marito, Bene, questa la signora Rosina. Forse troppo poco gli hanno dato a questi qui. Forse poco, sì, però, forse poco. Quella che va sempre col forcone alle trasmissioni. Ho capito adesso. Col forcone. Uno dovrebbe capire perché, cara Rosina, vai con il forcone in televisione. Perché ti presenti con quel forcone lì? Per fare una sceneggiata, per fare un po' di, no, di cinema. Anche tu, cara signora Rosina, non vai solamente perché sei sconvolto da quello che ti è successo, ma te lo dico anche con, come dire, con affetto. Cioè, tu ti presenti davanti alle telecamere di quinta colonna dalla vostra parte con quel forcone in mano, che non serve a una ben amata mazza, diciamo. Un po' strano. Quel forcone non serve a nulla. Te lo chiedono? Ci vai lì per fare un po' di cinema, per fare un po' di sceneggiata? Va bene, a noi piace il cinema, a noi piace la scenografia. Però non mi dire che vai lì col forcone perché sei veramente incazzata. Vai lì col forcone per fare scena, per fare un po' di cinema, non perché sei spaventata, perché arriva il terzo che ancora non t'ha rapinato, quello che è scappato e ti può rapinare ancora. E dai, su. Allora, dove andiamo? Dove andiamo? Provincia di Chieti, Alessandro, vai, forza. Pronto, buonasera. Dimmi Alessandro. Niente, la uno inizia subito a dire niente. Avanti. Inizia subito e dice niente. Va, avanti. Alessandro, dimmi. Già ti sei incazzato. Ma no, ma dici niente. Mi dici niente. Vabbè, un po' di emozione. Calma. Cerca di parlare bene innanzitutto, perché sennò ti sentiamo male. Vai. Abbiamo iniziato forte questa sera. Vai. Tu eri col viva voce, con l'auricolare, con tutto quello che si può avere. Va bene, c'è ragione. No, ma non si sente niente nemmeno adesso. Non si sente nulla nemmeno adesso. Mi senti? Niente, adesso? Piero da Carrara, vai a fare in culo. Piero da Carrara, dai, Piero. Sì, ciao Giuseppe. Senti, io volevo intervenire sulla notizia di Anna Frank. Ancora, che c'è da dire su Anna Frank? No, credo che sia ora anche di finirla, sempre con questa notizia. Ma che non c'è nessuna notizia, cioè è una roba vecchia. Lo so che è una roba vecchia, ma io credo che la stampa e i media gli abbiano dato troppa importanza e siano caduti nella provocazione di 2-3 stronzetti di una curva. L'abbiamo già detto, non è una cosa nuova. Gianluca dalla provincia di Lucca, vai. Allora Gianluca, bello. Sì, va bene, ho capito. Gianluca dalla provincia di Lucca, dai. Dimmi. Buonasera. Dimmi. Sì, dunque, io volevo dire che secondo me, premetto che io sono contrario alla satira ad ogni costo, quindi su alcune cose come sugli ebrei, sulle religioni non bisognerebbe farlo. Allora? Non sono secondo d'accordo. Secondo me allora? quello che ha fatto, diciamo così, i tifosi della Lazio, secondo me è satira. Hanno preso in giro i tifosi della Roma. usando Anna Frank impropriamente. Sì, vabbè, però, vedendola diciamo, dall'esterno è così, ma è evidente, una, ma è un insulto, è come evidente, lo usano, però, usano dire, quello come insulto, nulla a che vedere con la satira. Alcuni mesi fa abbiamo avuto un'opinione, dico abbiamo avuto, anche se io non ci avevo questa lei opinione, forse ha un'idea strana di satira. Lei no, forse ha un'idea strana di cosa sia la satira, no, però. Nel senso che la satira va fatta e va tollerata ad ogni costo. L'abbiamo ma detto la satira non c'entra nulla con l'insulto. Allora, i romanisti che insultano gli razziali e viceversa. Quello che è successo in Francia qualche mese fa. L'abbiamo detto. Allora, calma. Nei giorni scorsi, fermo Gianluca, nei giorni scorsi, anzi credo ieri, i tifosi in Germania dello Schalke 04 hanno fatto la stessa cosa. Hanno messo la foto di Anna Frank con la maglietta. Credo della loro squadra, non so. E il punto è molto semplice. Nella mente di queste persone, sto parlando del caso dei tifosi della Lazio come di altri ancora, è evidente che c'è un intento di insulto, ma è solo nella loro mente, perché di per sé mettere Anna Franco con la maglietta di una squadra di pallone non è di per sé un insulto. Ripeto che qualche mese fa dei tifosi sono stati assolti perché cantavano romanisti ebrei, perché non c'è insulto, era solamente dileggio, così ha detto il giudice. Non è che il giudizio dei magistrati può valere in un caso e in un altro caso no, non può ma valere. Per carità, questo è il punto. Però, allora, era fatto con disprezzo, non era fatto con amore né con ironia. Questo capito, è il punto, ma sono 11 adesivi. Abbiamo parlato per una settimana e continuiamo a parlare di 11 adesivi. Ma io, infatti, non ne parlerei più. Non avrei parlato neanche quel giorno Angelo lì. Io non provincia avrei neanche Cremona, ricevuto, vai. Infatti, né Lotito né nessuno. Angelo, provincia di Cremona, sì, dai. Sì, sono qua. Sto aspettando che Parenzo finisce. Dimmi. Buonasera. Comunque, io sono straniero, sono serbo. Sei serbo, allora? Ecco, volevo dire anch'io che si sta esagerando alla grande con quella Anna Frank. In che senso? In senso che in Serbia in un giorno l'hanno sterminato una intera scuola, 1600 bambini. Sì, tanti anni sono fa. Sono rimasti allora? 1600 diari. Ma che sono vuoi dire? Rimasti. Ma voglio dire che io diciamo sono cresciuto dai miei genitori per non odiare nessuna razza, non odio zingari. Ma che vuoi dire? Cosa vuoi dire? Spiegami. Voglio dire che adesso, con tutto quello che sta succedendo, gli ebrei mi stanno su cazzo, ecco. Perché? Quello che voglio dire. Ma non ho capito come perché, scusa, spiegami. Ma perché, ma sempre ebrei qua, ebrei bonisti, ebrei qua, ma ho capito, ebrei ma è successa là, una cosa che riguarda Anna Franco, non è successa una cosa che riguarda il popolo serbo. Fosse successa una cosa che riguarda il popolo serbo, uno si sarebbe mobilitato in teoria anche per quella roba lì. Cioè, non vedo dov'è il punto. Cioè, ma non capito perché qua, arrivi alla conclusione di dire sempre, gli ebrei mi stanno sul cazzo. Non ho capito. Non è una razza, vabbè, una religione, Una religione ebrea. A te ti stanno sui coglioni, punto no, e basta. Non questo è che il punto coglioni, è questo, ti stanno sui coglioni. Sui coglioni se nessuno, però se vanno avanti, se Parenzo va avanti così, lui riaccende l'odio. Io non ne parlo più, non ne parlo vabbè, proprio. Angelo, ciao. Ma ciao. No, non è che non devi parlare, parla. Però... Ma perché dici mi stanno sul cazzo? Hai detto una cosa chiara, chiarissima, gli ebrei mi stanno sul cazzo, l'hai detta proprio perché? Chiara. Ma perché no? Già un mese Anna Frank là, ebrei, poveri ebrei e di palestinesi, non se ne parla. Vabbè, adesso il passaggio da Anna Frank ai palestinesi. Ma, cioè Anna Frank, ma che cosa vuol dire Anna Frank? Vuol dire una ebrea, una ragazza ebrea che è stata uccisa. Ma come mai nessuno parla di 1600? Ma chi è che non ne parla? Ma chi l'ha detto che non ne parla? Ma non è vero. Giorno. Vabbè, ciao Angelo, ciao. Volevo segnalare sul caso Weinstein una cosa che ha detto Valentina Nappi su, credo, al Corriere della Sera, tra l'altro il Corriere della Sera che intervista Valentina Nappi, ti voglio segnalare questa cosa qua, il Corriere della Sera che interpella Valentina Nappi, che sdogana di casa quando lo caso... facemmo noi, Valentina Nappi che parla di sesso, di queste cose, cadeva giù il mondo, Confindustria e gli imprenditori scandalizzati quando parlavamo di sesso anale con Valentina Nappi o parlavamo di sesso con Valentina Nappi. Sul Corriere della Sera la signora Valentina Nappi, che notoriamente se andate a vedere, non è, sì, parla anche di politica, di filosofia, però sostanzialmente lo piglia in quel posto, diciamola tutta, o sbaglio? Beh, adesso questo, dove, adesso io non le so gang cosa bang, le gang ma bang, non so quello che lei fa per lavoro, intervistata dal Corriere della Sera, non lo so quello che diciamola tutta lavoro. Valentina Nappi che fa le gang bang con Black Man, con Big Bamboo, con no, 15-20 persone, sai, benissimo, io... interpellata dal, fanno benissimo dal Corriere della Sera. Dunque, prima cosa, non ci rompete più i coglioni con queste robe qui e smetti di muoverti, perché altrimenti il tuo microfono fa rumore, dico a Parenzo. Ah, che giornata, ragazzi. Ma sono felice di ritrovare, sono felice di ritrovare. Comunque la Nappi ha detto una cosa fondamentale: se le donne dessero di più la figa non sarebbe merce di scambio. Questa è la teoria della Nappi. A proposito del caso Weinstein, il caso di Kevin Spacey, eccetera eccetera, il caso di Kevin Spacey che riguarda il mondo omosex, come sai, no? Però lei dice se le donne si concedessero di più, è la grande teoria storica della signora Nappi, direi quasi ormai entrata nei libri di storia e di sociologia. Se le donne dessero di più la figa, dice chiaramente la signorina Nappi, vabbè, questo la signorina Nappi, non ci sarebbero più questi casi. Cioè dire, sarebbe molto più semplice, non ci sarebbe bisogno di molestare, di stuprare, eccetera eccetera. Soprattutto bisognerebbe darla ai brutti, ai poveri, agli ultimi. Grande teoria nappiana che nei prossimi giorni, come dire, sviscereremo in tutte le sue propaggini, tutte le sue conseguenze. Ho capito, che iniziasse lei allora. Ma mi sembra che lo faccia con una certa frequenza. Ma sono lezioni a tutti. Ma sono contento di ritrovare. E siccome ne parla il Corriere della Sera, sono autorizzato, lo facevo anche prima, per carità, a farlo anche per giorni interi. Se lo fa una volta il Corriere della Sera, qui alla Zanzara si può fare per 100 volte. Per 100 volte. Sono contento di ritrovare in questo tempio di libertà un mio amico Mauro Corona. Buonasera, buonasera. Ah, molto bene, meno male. Mauro. Oh, regà. Pronto? Lo scrittore. Mauro, ci sei o no? Sì, sì, ci sei, vi sento adesso. Sì. Come andiamo? Benissimo. Che stai facendo? Niente, sono qui in una cittadina del Veneto per fare una chiacchiera, ma comincio alle 8:15, quindi abbiamo tempo. Abbiamo tempo, caro Mauro. Non ti vedo, non ti sento molto in forma, però sei in forma. No, sono in formissima. E che con l'età divento saggio, parlo meno irruento. Bravo, ma no, meno irruento, bello, meno irruento. Bene, non devi dire così, perché la Zanzara. Dove ti trovi in Veneto, a caro Belluno, Mauro? Sta a Montebelluna. A Montebelluna. A Monte, sì. Non è Belluno, Montebelluna è diverso. Io a proposito, ti voglio chiarire una cosa, caro Mauro. Ma tu sei nato in Trentino, diciamo, no? Sei nato in... Sono nato per strada, su un carretto, perché i miei vendevano oggetti di legno scolpiti durante l'inverno. Sì. E quindi io tra Trento e Pinè, 9 agosto il 50, nacqui su questo carretto. No, per sì, quello però... che odio i luoghi chiusi, le tendine persiane. Non ti piacciono i luoghi chiusi? No. Però voglio dire, sei veneto però tu. Cioè, noi siamo in Friuli. No. Tu sei in Friuli, sei residente in Friuli tu? Sì, io sono Erto e l'ultimo paese del Friuli. Però tu sostanzialmente poi graviti moltissimo in Veneto, assolutamente, no? Gravitiamo sul Veneto, su Belluno, su. E allora voglio dire una cosa: la frase di Toscani, quello che ha dato dei monachi, è andato a votare per il referendum. Cosa ne pensi? Diciamo la verità, facciamo un po' il punto della situazione. Io l'ho criticato perché secondo me è stato un imbecille a dire queste cose qua, molto chiaro. Ma Toscani è protetto dalla sua stessa fama e può permettersi di dire qualsiasi cosa. Mi meraviglio perché non l'abbia detto a Zaia. Quello amico mio, io ho cercato di farglielo dire, ma l'uomo è cominciato anche lui, comincia a diventare prudente anche lui. No, ma lo stesso Toscani ebbe a dire una volta che la natura va devastata, non va protetta, non va. Come devastata? Sì, non mi ricordo che trasmissione, che la natura non gliene frega niente, che andrebbe devastata, che è solo retorica, proteggere gli alberi. Lui è uno così. Probabilmente una carenza ormai sua di fama, anche se è tornato con Benetton, lo spinge a cercare ancora visibilità dicendo fesserie. Non si dice. Poi vorrei raccomandare a Toscani, a me non piace, alcune cose sue mi sono piaciute, interviste, però c'è questa sfocchia. Ma diceva un proverbio ertano: non dire mai mona a un mona, altrimenti prima o dopo te lo troverai contro. Ora, non è che i veneti siano mona, certo sono chiusi qui nel loro limbo di lavoro, di produttività, perché di tradizioni, secondo ma dire te, mona. Ma non ho capito, secondo te è una cazzata questa storia del... cioè non sono mona, alla fine, sono mona quelli che sono andati a votare, sei d'accordo con Toscani, sì o no? Se no non si capisce. No, ognuno è libero di fare quello che vuole, non sono d'accordo sulla divisione dell'Italia. Massimo D'Azeglio... disse: ora che abbiamo fatto l'Italia, bisogna fare gli italiani, e invece quelli non sono ancora fatti, sono veramente briciole. Ecco, quello, non sono d'accordo su dividere. Cioè, ma in che senso? Non ho capito, in che senso? Cioè, sono la storia di staccarsi, o comunque di l'autonomia, eccetera, tutta una cazzata, secondo te? Non è una cazzata, per chi la vuole è una roba seria. Io sono per l'unità d'Italia. Quindi ognuno è libero di fare, se vogliono staccarsi hanno tutta la mia approvazione, però non è nelle mie idee dividere l'Italia. Cioè, no, ma neanche loro vogliono staccarsi ormai. Ma allora più autonomia di che? Ma allora anche no, fiscale, ma su quello possono, fiscale, ma un'autonomia fiscale. Ma di più autonomia. Io abolirei le regioni a statuto speciale, allora ho tutto o nessuno, no? No, ma questo il Friuli. Il Friuli è statuto speciale. La sì, questo non è sbagliato, è vero. È vero, hai ragione. Ma perché? Ma chi siete voi? Facciamo tutti a statuto speciale, tutti uguali. No, sì, ma questo ha ragione lui. Io voglio capire una cosa. Per cui, secondo te, votare per il referendum, eccetera, è una roba di egoismo? No, è una roba di opportunismo, che può anche trascendere nell'egoismo. Però se loro vogliono avere di più, mi va benissimo. Io non sono di quella idea, pur conoscendo Zaia, conoscendo Salvini. Vabbè, senti, dimmi una cosa, ma come l'hai preso questa vicenda di Weinstein, ma adesso quella di Kevin Spacey? A te, ma per esempio, una donna... Cioè... Ma anche la storia di Asia Argento, a me dà fastidio che scoprano di essere state deturpate nella loro etica e non solo nell'estetica dopo 30 anni. Ditelo prima! Sì, questo qua 30 anni. Ditelo prima! È come quelle che sono quel produttore cinematografico adesso, che tutte saltano fuori, che sono state, ma se uno ti chiede di dargliela, no? E sì, tu sei etica, dici: no signore, io vado a lavare pavimenti ma non te la do. Bravo, invece questo gliel'hanno data, e dopo no, ma il caso scoprono di averle data per far carriera. Ma lì il caso è diverso, però, perché in realtà l'Asia Argento uguali, non ho avuto, no, non ho avuto nessun beneficio dall'andare con quel produttore. Non ha mai lavorato con quel produttore. Ma in funzione di averne beneficio. Ma no, era il contesto nel quale si è trovata, contesto, e si è vista costretta a farlo. È una pressione psicologica anche che ha subito. Scusa, la mamma è mia, non mi costringe a farlo. No, ho capito, ma ci sono delle circostanze in cui la pressione psicologica che ti può esercitare una persona molto potente, beh, è superiore al fatto di poter scappare, perché un conto è l'aggressione fisica, fisica. È così. Non dire stupidaggini, che è così. C'è la violenza, quella fisica. Dopo 20 anni. Evidentemente, perché ha avuto un trauma da questa cosa, secondo me non ha avuto alcun interesse. Ma il risultato della discussione è che questa persona è stata attaccata da tutti, quindi che vantaggio ha avuto a dire questa cosa? Ma cosa c'entra? Ma perché aveva un calo di visibilità? Ma quale visibilità? È una triva, di che visibilità ha bisogno? Bene o male, purché se ne parli, questa è tutta gente che aveva un recesso, un oblio di visibilità, e hanno scagliato il sasso nello stagno. Se no lo devi dire prima. Beh, non possiamo dire quando uno deve denunciare una cosa di questo tipo. Come no? Chi siamo per dirlo? Scusami, allontana un po' il telefono dalla bocca, Mauro, se no si sente un casino tremendo. Io voglio capire una cosa. Le donne ogni tanto a te ti saltano addosso per ottenere qualche cosa, no? Perché non hai niente da offrire, o no? No, per ottenere qualche cosa no, sinceramente. Dopo questa mia gloria effimera, c'è qualche vecchietta che mi fa delle proposte, ma a parità di diritti, non che io ne approfitti. Anche sono quasi impotente, cosa volete che vi sappia? Quasi impotente, ma che quasi, dici? Dai. Quasi impotente, cioè vuoi qualche pillolina naturale che mi è arrivata? Ma costano care, però. No, ma vuoi te le regale, te le mando. Magari, mandami su una confezioncina, dai. Ti mando su una confezioncina a Erto a casa tua. Per quella saggia idea del non si sa mai. Sì, ma non si sa mai, adesso non esageriamo. Una scopata al mese te la farai, scusa amico mio, no? No, di più. Cioè, di più di una al mese, appunto. Cioè, una volta a settimana tromberai, o no? Sicuro. Almeno una volta a settimana. Certo, sì. Ma assolutamente, dai, su. Ma c'erano delle ammiratrici, avrà delle amanti fisse, ogni tanto andrà a mignotte, pure andrà pure a mano. Fortunatamente non ho un giro di vecchiette che mi mi soddisfano. Non vado a ragazzine. No, la moglie che c'entra? La moglie è out da tempo, cioè Parenzo, ma non mi pare. Ho capito, però magari detto così alla radio. Ma lo sapeva già, la moglie lo sa benissimo. L'Eros venerando ha tanti vantaggi. L'Eros? venerando. Ah, degli anziani, sì, dici? Che, sì, che vantaggio ha? Io sono anziano, io ho 67 anni. Ma che vantaggi ha, dici? Allora, non restano incinte, non, sì, si innamorano, sì, non lasciano messaggi in segreteria. Sì. No, siccome hanno le ultime cartucce, te lo bruciano, sì, e il quinto era... sì, non prendi le malattie, forse, no? No, no, era... Ostia, mi sfugge l'ultimo, va bene, dai. Quinto vantaggio. Vediamo se te lo ricordi tra un attimo, dopo la pausa. Aspetta un attimo, sì, resta lì. Parenzo! Sono Parenzo! Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. Parenzo. E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Oh, senti. La zanzara. Con questa trasmissione della zanzara della minchia. Il momento più bello della giornata è quando si aspetta la moglie e sotto c'è il podcast della zanzara. Molto bello, molto bello. Le attrici la danno via per carriera e sono vittime. Se le prostitute la danno via per dei soldi, sono mignotte. Che bello, veramente. Come ti cambia il ruolo. Il ruolo ti cambia, il ruolo nella società. Ma alla fine è sempre la stessa cosa. La dai per interesse. Allora, ragazzi, abbiamo sempre in collegamento Mauro Corona, grande ascoltatore della Zanzara. Grande scrittore, ovviamente, mio grande amico, che dice che si è moderato recentemente, è diventato più giudizioso. Però io vorrei riprendere da questa considerazione che fa la filosofa, nonché pornostar, Valentina Nappi. L'ho ripresa testualmente, caro Parenzo, perché mi pare che da qui possiamo ripartire per un nuovo inizio. Il caso Weinstein può essere uno spunto per discutere, dice lei, del rapporto tra accesso alla carne femminile e posizionamento sociale. Cioè, tutto questo sul Corriere della Sera, che non fa un plissé di fronte a queste cose. No, ma senti, fatto sul Corriere assume autorevolezza. Senti, ma che autorevolezza, sì. Certo. Oggi dovremmo innanzitutto chiederci questo. È bene, è giusto, è razionale, è utile che in una società avanzata il sesso femminile continui ad essere merce di scambio come in passato? La risposta antisessista io credo debba essere no. Ma è illusorio pensare che il sesso femminile possa cessare di essere merce di scambio se persiste una situazione in cui c'è scarsa disponibilità. Ciò che è risorsa scarsa è gioco forza merce di scambio, in un modo o nell'altro. Viceversa, se ci fosse disponibilità, se anche l'operaio e non solo il boss della situazione avesse la possibilità di essere soddisfatto, allora meccanismi come quelli in gioco nel caso Weinstein perderebbero completamente ogni significato. Che senso avrebbe usare la parola posizione per ottenere quello che tutti hanno a portata di mano? Sesso libero a disposizione, dice la Nappi. Io non dico di essere d'accordo, mi sembra una cosa un po' utopistica. Beh, anche mi un pare po'... che Weinstein ne avesse a disposizione, allora, anche senza commettere le violenze. Bisognerebbe far diventare, senti che cosa dice, la carne femminile è sempre più cheap, finché non diventi illimitatamente attingibile come l'aria. È chiaro che non possiamo realizzare un regime totalitario che obblighi tutti a far sesso con tutti. Però abbiamo l'arma delle mode, dell'influenza che i media possono avere sulla psicologia di massa. Possiamo far passare l'idea che sia cool essere come Valentina Nappi e che sia invece out essere sessualmente selettive. Alle ragazze bisogna dire: se volete essere chic e moralmente superiori, datela il più possibile. Concedetevi ai losers, agli emarginati, ai neri che vendono fazzoletti ai semafori, agli ultimi, anche a costo di andare contro certi vostri istinti. È necessario dunque riscoprire anche nell'attrazione sessuale il bello di essere contro istintivi, e in questo caso l'istinto sarebbe quello di dirigersi verso il potere, verso quelli che sono, diciamo, più alti nella scala della società. Corona, le donne dovrebbero darla di più, dice Valentina Nappi, tu che dici? Ma io sono d'accordo, è che siamo un popolo di bigotti. Guardi, io sono andato in Groenlandia in spedizione 2 mesi, lì l'amore, il gesto, diciamo, fisico dell'amore, sì, è come una dolcezza, è come un gioco. Quindi gli eschimesi di Inuit e Tunumiut ti offrono la moglie, la figlia, la fidanzata, la sorella. Ecco, noi siamo all'età del bronzo di queste cose. Comunque è sempre stato una merce di scambio persino dallo Iux prime noctis. Cioè, io dico, secondo te ci vorrebbe più sesso libero, diciamo, meno. Ma, sì, diciamoci le cose, se una mi piace, io le dico tu mi piaci, e le dico ma come ti permetti, chiamo la polizia, siamo un popolo di bigotti, poi... Cioè tu dici oggi rischi una denuncia, certo, una denuncia facciamo, in ogni secondo. Finta di essere puri, facciamo finta, però poi è funzionato sempre così. Senti, dimmi la una cosa, ma... ha comandato no. il mondo. Però, un mio vecchio maestro analfabeta, ma un filosofo, sì. diceva soldi e figa non vanno messi in banca, che non li trovi con gli interessi. Poi uno è libero di fare quello che vuole. Beh, io non certo. ho mai approfittato di nessuno. Mm. Però non venite a dirmi che la figa non ha comprato il pianeta. Dimmi una cosa, ma tu chi è oggi una che proprio non resisti quando ti guardi in giro? Una che proprio ti faresti immediatamente? Cioè proprio una di quelle che ti scoperesti... No, non si può fare nome per rischio denunce. Ma perché? No? No, denunce. Una di quelle che proprio ti fa andare col sangue al cervello, che la vedi... Valeria che ne so, Marini. Ancora Valeria Marini. Vista da dietro. insomma, mi chiedete... Valeria Marini vista da dietro. Vista da dietro, sì. Perché dici davanti è inguardabile, dice. Cioè. No, è guardabilissima, è che io sono malato di estetica, diciamo, del culo. Retrospettiva, del culo, diciamo. Ti piace il culo, ma diciamo, sei uno scrittore così fine, così... No, c'è la scrittura, guardi che da lì era un grandissimo pittore. Picasso erano geni inarrivabili, certo, ma come uomini Picasso pretendeva ogni mattina una donna che gli facesse da scendiletto e la calpestava, cioè l'arte o la scrittura, sì, la pittura, non va d'accordo. Picasso è vero. Picasso è vero, ma non quindi è che se uno scrive... Non mischiamo l'arte con la personalità. Cioè tu vorresti... A me piace il culo, a uno gli piace le caviglie, l'altro le unghie, a l'altro te, a te piace il culo? No, perché lo devi dire così? A te piace il culo, ma se ti piace... Perché lo devi dire? Ma tienilo... come Parenzo, il mio ma no, sono ma tienilo... Sono un primitivo, mi piace guardare il culo alle donne, non la... Anche tu vorresti, scusami, anche tu vorresti... A Parenzo piace la cavigliera, figurati. Anche tu vorresti una donna che ogni mattina, che ne so... No, mai, no, quello no, io molto no, rispetto. scendiletto, dico no, ogni mattina, no. Che so, ti vorrei la parità di espressione, invece che stare lì a dirle a una donna, Sara, io e lei abbiamo affinità culturali agli occhi come i fiori di lino, e pagargli la pizza 8 mesi per fare quello che posso fare subito, diciamo andiamo a letto, sì, poi ti pago pizza 8 mesi o tu la paghi a letto. Però sesso subito. Abbiamo una vita solo velocissima e devo perdere tempo 8 mesi. Quasi meglio una puttana, uno dice, no? Ma sì, stavo per dirlo. Diciamolo. Vi intendete su questo? No, no, ma diciamolo, Mauro. Cioè, se devo perdere tempo, meglio una prostituta, dice. Cruciani, che quelle che mi hanno detto ti amo, mi hanno reso la vita un inferno. Mm. Ecco, meglio andare a troie. Beh, questo qua, diciamo, è un proclama interessante, molto interessante. Ma è vero che tuo padre picchiava tua madre? Terribile fatto dell'amore. È vero, ma come che... no, l'ha mandata 3 volte in coma, scherzo. Mamma mia. L'ho vista a casa la violenza, io sangue giù per le scale di legno. Ma nessuno di voi non è stato mai denunciato tuo padre per quello che ha fatto? No, perché se lo denunciava l'ammazzava del tutto. Era l'omertà della violenza sulle donne, era omertà. Ma non solo mio padre, parecchi in paese. Va bene. Ti abbraccio. Come hai vissuto sta cosa tu? Brutte bestie, scusa, ma non ho capito una cosa. Volevo capire, ma quando tu vedevi queste scene di tuo padre così brutte? Avevo 6 anni, cosa facevo? Avevo 6-7 anni. E appunto, senti, ma cosa ti è rimasto? Però non voglio parlare di queste cose. Mi è rimasto questa malinconia di aver visto la violenza. Poi mia mamma ci abbandonò per non essere ammazzata. Tornò che io avevo 13 anni, facevo il pastore sulle malghe gratis. Solo Vitto Alogio, l'ho fatta la gavetta io, non sono quelli scrittorucoli intellettuali. Ma certo. Con la puzza sotto il naso. Senti Mauro, ma l'atto sessuale che ti piace di più quando stai con una donna, qual è? Essendo di origine misogina, girato da dietro, cioè l'atto sessuale. Girato da dietro, perché se la guardo in faccia mi pongo dei problemi, no? Mi sento quasi di approfittare, allora la volto, così vedo il culo e non vedo lei che mi può fare degli appunti, diciamo, psicologici. La pecorina, la famosa pecorina. No, dirlo. La famosa pecorina. Detto, io non l'ho detto. Beh, è uguale, insomma, amico mio. Ciao Mauro, ciao. Ciao, notte ragazzi, ciao. Signor Corona. Allora, Federico da Roma, vai Federico, vai. Buonasera a tutti. Sì. No, aspetta, amico mio, aspetta. Cioè, io ti devo sentire bene, non mi fate incazzare stasera, dai, forza. Allora, prima di tutto, quello che mi avete fatto incazzare oggi siete voi due, perché, voi la dovete smettere di minacciare tutti quelli che vi chiamano con la denuncia, vi cito per danni. Dipende cosa io dicono. Io questo bavaglio che volete dare a noi... Io bavaglio, io non ho mai denunciato nessuno e non denuncerò mai nessuno, a meno che... Questa non... è una creatura fascista da parte di Parenzo. Perché no, io voglio essere... Devo sentire bene, da dove cazzo chiami? Devo sentire se bene. Se uno offende, insulta e dice delle fregnacce, è evidente che... Ma lascia che denunciare essere... gli altri, voi perché... Dovete per me, la gente che interviene deve essere autentica, deve essere libera di dire quello che vuole. A volte lo è fin troppo, ma uno... No, ma io sono d'accordo con Federico, cosa. Noi non dovremmo mai denunciare nessuno, noi che siamo qui. Quindi adesso voglio un impegno formale da parte di quello stronzo che sta alla testa a lanciare le pubblicità. Perché tanto lui fa solo questo, ma chi? Lancia le pubblicità chi? Alla chi? Sette. Ma chi? Parenzo. Ma se conduce Parenzo. Le trasmissioni, ma che cazzo dici? Ma perché lo dice solo? Ma non dire cazzate, dai, su, ma non dire... Questo non è un insulto, va benissimo. Questo, che non è un, questo che lui ha detto non è un insulto, quindi va benissimo, è una battuta certo, simpatica. Stai controllando quello che dico? Ma questo è un tentativo indiretto di censura fascista. Perché se voi volete mettere il bavaglio a noi che chiamiamo, avete rotto le palle. Noi dobbiamo essere liberi quando chiamiamo la zanzara di dire lei quello è libero, che vogliamo. Se sia supera un certo limite, da me verrà denunciato e poi vediamo. Questo è semplice. Questa è censura in diretta fascista. No, no. Vabbè, Daniele da Piacenza, vai Daniele. Salve. Ma io mi ricollego anche a questo discorso qui poi alla fine, perché secondo me stuzzicare la rabbia della gente non porta il disagio, lo trovo molto pericoloso. E chi sta in studio e fa il suo, tanta retorica, però dopo alla fine non vede le travi che ci sono in giro, è molto pericoloso. Come trovo molto pericoloso il fatto di continuare a dire siamo cittadini del mondo, che quindi vuol dire che sei senza patria. Sì, però amico mio, devi stare tranquillo, cioè non devi cominciare a fare... Non devi fare voli, non devi fare voli pindarici. Cerca di spiegarmi con parole tue cosa cazzo hai da dire in pochi secondi, senza partire per la tangente. Cosa vuoi dire? Se posso... No, perché sennò mi fa incazzare, avanti. Vedo sofismi, e ce l'ho con parenti, non con lei, vedo sofismi e poca attenzione... ai problemi che la gente solleva. Sì, ma non sei Fusaro, non sei Fusaro. Cerca di essere... Ma di chi parli? Di chi parli? La gente sta parlando. Uno che deve dire parole di altri. Io sto dicendo... Daniele, di cosa vuoi parlare? Giocare con le parole, non ascoltare le persone. Quel camionista poveraccio lavorava, avrà detto bestialità, avrà detto... Ma ci sarà un'origine che lo porta a dire quelle cose. Federico da Firenze, ciao, non ho capito un cazzo. Ciao Daniele, Federico da Firenze, vai. Federico, non c'è più Giancarlo, provincia di Roma, dai. Giancarlo? Eccomi. Dimmi Giancarlo, dimmi. Sì, ma perché non gli ricordi che il problema del pianeta è la fica? A chi? Da quando Adamo ha preso quella mela è finito tutto. Noi potevamo stare tranquilli nel paradiso. E poi a Parenzo bisogna che ti ricordi, forse se lui si è dimenticato, lo vuole dimenticare, che la sodomia l'hanno creata loro. Chi? Lei. No, Giancarlo, però rimettiamo le cose in fila. Allora, Giancarlo, il motivo della tua telefonata qual è? Innanzitutto hai cominciato a dire una cosa. La solitudine, intanto. No, beh, questo è sicuramente uno dei motivi. La solitudine. Poi solo quello, cioè la solitudine. No, però voglio dire, Giancarlo... Dice cose sconnesse. Ma c'è dietro molto di più. Ma dietro perché cosa? Sono Megomorra, erano ebrei. Ah, città chi ebrei. Erano, scusi. Sì, ma ho capito. Innanzitutto, Giancarlo, come, non lo so, lo sento da lontano, come se fossi in una caverna, innanzitutto. E la cosa mi fa già incazzare, Giancarlo. Allora, in un corridoio di ospedale. Ah, ecco, appunto. Giancarlo, ecco perché stai in un corridoio d'ospedale? No, una piccola riabilitazione o un'operazione al femore. Ecco, ma voglio capire il motivo della tua telefonata. Il reparto, qual è? Il reparto non è quello, secondo perché me. Gli sta per dire a Carenzo che la sodomia l'hanno inventata loro. Sì, cioè, l'hanno inventata chi? Gli ebrei? Gli ebrei. Dove l'ha letta questa cosa intelligente? Dove l'ha studiata? Ma che c'entra? La sodomia è gli ebrei? Non mi pare. Non mi pare. L'hanno inventata? I greci, i romani, niente. Vabbè, comunque va benissimo. Dai. Rimanga convinto della sua cosa. I romani sono arrivati dopo. Lei mi convince, no, dico inventata e poi portata avanti. Cioè, dice delle cose talmente sconnesse che il luogo nel quale si trova è il luogo adatto, cioè l'ospedale. Fermi quindi tutti, fermi tutti. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Fenomeno. fenomeno. Io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. Devo dire che io ho avuto un datore di lavoro donna che ci ha provato anche pesantemente, e io ho rifiutato perché è innamoratissimo di mia moglie, e quindi alla fine della fiera mi sono dovuto licenziare. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Cruciani, qua siamo al top, ma quando inizia la zanzara? Ma cosa c'è purtroppo? C'è solo una piccola cosa che io non posso digerire, ma mi tocca digerirla per forza. Cruciani, tu a me non mi devi prendere il culo. Siccome che tu hai proposto la 7 donato e fa 500-700 visualizzazioni, io ne faccio 18.000! Io ne faccio 18.000 con un video in un mese e mezzo! Giuseppe, ti volevo consigliare il miglior depressivo quando i medicinali non funzionano. È l'eroina! Ma che si fanno una pera, vedrai che non si ammazza più nessuno. Ragazzi, questo insomma adesso consigliare. Messaggio distorto, messaggio pericolosissimo. L'eroina, ragazzi, siamo alla follia più totale. Non possiamo mandare questi messaggi così devastanti, diciamo, alla società italiana. Però, grande ritorno di una rubrica che sembrava ormai dispersa. Che è quella degli indagatori dell'incubo, caro Parenzo. Oh mamma mia. Allora ragazzi, l'indagatore dell'incubo qui presente, Giuseppe Cruciani, e lo scettico di professione David Parenzo, questa sera vi offrono un ufologo. Un grandissimo ufologo. Un ufologo con i controcoglioni, Matteo Tenan, che è venuto a salvarci o che ci può salvare dai rettiliani. Oh mamma. Pronto? Sì, Matteo Tenanna? Sì, dica. Buonasera, come sta? Io sto bene. Qui Radio 24, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera, senta, io ho sentito da qualche parte, in qualche trasmissione, questa storia dei rettiliani. Sì. Volevo capire, veramente lei pensa di poterci salvare da questi rettiliani? Sono un umile ufologo, sì, insieme ad altri migliaia di ufologi, sì, che si impegnano tutti insieme, sì, comunità ufologica mondiale del pianeta, sì, Terra, sì, stiamo cercando di fare qualcosa per svegliare i nostri, sì, compatrioti. Ecco. Quindi gli alieni, sì, negativi ci sono, come, sì, esistono quelli amichevoli, sì, quelli evoluti, esistono anche gli alieni, aspetta, violenti. Allora, questo bisogna che lo capiamo, ecco, prima, no, di tutto. Io voglio capire, prego, una cosa, dica, come si manifestano questi alieni violenti, signor Tenan? Cioè, questa è la cosa, allora, importante. Questi allievi si sono manifestati principalmente, sì, rapendo gli esseri, sì, umani. Lei è stato, poi, vittima di un rapimento? No, oh, mamma. No, non sono stato vittima, però ne ho conosciuti. Apro una parentesi. Io ho spiegato che cos'è la schermatura. Una pietra che, sì, è fisica, non è una fantasia. La pietra esiste nella realtà. A che serve? Prego. A che serve questa, dica, pietra, scusi? Allora, questa pietra serve a discriminare le persone che sono già state abdotte dalle persone che non sono mai state, oppure finora non sono state, non sono state mai. Cioè serve a distinguere le persone che sono state rapite dagli alieni e persone che non lo sono state. Ma quante persone sono state rapite dagli alieni fino ad oggi? A me risulta che sicuramente un centinaio. Perché quelli li ho investigati io di persona. Sì. Poi ci sono altri ufologi che ne hanno investigate. Presumiamo che possa essere circa 20.000 persone. 20.000 prego. Persone in Italia? 20.000. Ma scusi, ma a che scopo? Sì. A che scopo catturate dagli alieni? Qual è lo scopo di questi alieni? Che relazione c'è tra gli alieni e i rettiliani? Allora, gli alieni comprendono tutti. I rettiliani sono un sottoinsieme della categoria alieni. Ecco, ma i rettiliani sono quelli che governano il mondo, che mangiano gli uomini, che fanno? Allora, purtroppo ci sono anche episodi in cui gli alieni hanno ucciso esseri umani. Oddio, quanti episodi? Porca miseria, sicuro, ma è una roba pazzesca. Di sicuro ne abbiamo quattro con le testimonianze del mondo, ce ne sono sicuramente quattro. Noi non facciamo allarmismo. Perché prima di tutto meglio non farlo, certo. Verremo conquistati da questi alieni, c'è un pericolo o no? Allora, conosco il futuro. Io non conosco il futuro. Non conosco un cazzo, sostanzialmente. Comunque. Io posso dire che noi come esseri umani, se smettiamo di fare la guerra fra di noi, ci uniamo tutti contro in un solo governo, armonia dei popoli, armonia mondiale, mondiale, armonia mondiale, e usiamo le invenzioni di Nikola Tesla, che ci sono da 100 anni, ci sono, ma nessuno vuole. Ma usiamo delle medicine che funzionino. Costruiamo? Finisco. Costruiamo una flotta per carità, di vascelli veri, le cose a reazione alle astronavi che fanno cagare. No, aspetti un attimo, la flotta vascelli. Chiudo. Astronavi che sfruttano le leggi armoniche della natura. Scusi, ma la flotta di vascelli a che serve? Per curiosità, perché tutto il mondo dovrebbe costruire la flotta di vascelli per fare cosa? Per difendersi. È logico da che il ma mondo. Da chi? Aspetta. Da chi? Stracazzo, da chi? Da chi? Dagli alieni violenti. Calma, dagli alieni violenti. No, è tutto chiaro. Quindi, questi alieni violenti si fanno. Ma non è chiaro niente. Però scusate, che credibilità ha sto signore, con tutto il rispetto, che parla di vascelli contro gli alieni? Questi rettiliani, come faccio io a riconoscerli per strada, per esempio? Io sono al bar, come faccio a riconoscerli? Dovrebbe avere una pietra anche lei, oppure dovrebbe essere un sensitivo, perché purtroppo non è semplice riconoscerli neanche per noi ufologi. Ecco, ma qualcosa sento però aspetta. Poi si riconoscono? Cioè, questa pietra innanzitutto costa qualcosa, è cara, cioè si può acquistare? No, purtroppo allora le pietre nel 2010, quando io l'ho detto, purtroppo non sono stato ascoltato. Adesso non si trovano più. Impiantano nel cervello qualche cosa? Che fanno? Purtroppo una delle sevizie che fanno è anche l'implantaggio, ma non è l'unico problema. E che fanno? Quello dell'implantaggio. I pianti microchip sottocutanei possono essere disattivati usando le metodologie di Nikola Tesla. Io sono schermato. Lei è schermato? Lei è schermato? Meno male. Come schermato? Non ho capito. No, lei è da ricovero, ma non importa. Io comunque alcuni ufologi e alcuni problemi gravi anche, non ufologi. Siamo stati schermati eticamente. Non siete stati schermati, siete stati rinchiusi in una struttura protetta e ogni tanto potete uscire, e questo è il momento dell'ogni tanto, quando Cruciani vi chiama. Scusi un attimo, ma non è che siete stati schermati, siete stati rinchiusi. La schermatura, in cosa consiste la schermatura? Scusi. Senti l'altra. Allora, la schermatura non è una cosa materiale, perché se fosse una schermatura materiale la potrebbero rubare. È una schermatura di tipo energetico. E lei come fa ad averla, scusi? No, ma perché me l'ha data il medico somministrandole la solita terapia. Un percorso iniziatico. Ma non è un percorso, è una come cura. Iniziatico. Allora, è una cura, non è un percorso, è una cura, cura che deve seguire ogni giorno lei. No. Lei di mestiere che fa, scusi, Tenan? Io sono tecnico informatico, io sono un perché si presenta come un ufologo, allora? Come hobby, capito Parenzo? Come hobby un ufologo? No, capito tutto io. Dal profondo del cuore, quello che lei chiama iniziazione all'ufologia, in realtà è null'altro che una terapia accuratissima che il primario di medicina, di psichiatria, le sta somministrando. Ora, va benissimo che lei dica questo, che è stato schermato. Non è stato schermato lei. Lei è sotto cura psichiatrica, questo è il punto vero. È passibile di denuncia per questo. Arrivederci. Mi meraviglio che una radio debba avere bisogno di questi personaggi. Questo comunque, se vuole mi chiedo fare anch'io di delle questo, domande, io sono per delle altre domande. Arrivederci, professore. Grazie di tutto. Grazie. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Siamo il top. Ma va suca. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Oracle Cloud Show. Le storie di successo Oracle danno spettacolo a Milano giovedì 9 novembre. La Zanzara. Ti piace stare nel tuo salotto, stronzo? Parenzo, di qualcosa. Ragazzi, la mia conculina dice che lei si depila la patata e fa un rettangolo. Avevo fatto un disegno alla lavagnetta, lei ha la patata rettangolare, non riesco a capire. Non ha triangolo, rettangolo. Questa non l'ho capita bene, David. Questa rivelazione sul rettangolo invece del triangolo. Dell'amica, poi vai anche a mettere tutto in piazza, così mi pare incredibile. Gaetano da Napoli, vai, andiamo per il gran finale, Parenzo, non sai cosa ti attende adesso. Può andare peggio di così? È Gaetano, difficile. Vai. La Gabanelli si è dimessa, adesso sì, è vero, dalla Rai, si è dimessa dalla Rai, definitivamente. E sti cazzi! Potremmo almeno darle noi una rubrica qui, almeno. E sti cazzi! Ecco. Allora, Gaetano da Napoli, dai, Gaetano. Cruciani. Cruciani. Gaetano. Cruciani. Ho capito, Cruciani è qua. Gaetano. Visto che sei il portaborse e l'illustrascarpe di Festri, no? Sì. Ti voglio lasciare un messaggio per quell'infame, così io lo porti. Sì, stasera che gli vai a pulire le scarpe. Sì, sì. Ho aspettato 15 giorni. No, ecco anche i piedi, guarda. Ma no, anche qualcos'altro, no? Sì, Ho aspettato 15 giorni da quando molte zone del Piemonte stanno andando in fiamme. Sì. E non ho ancora letto, su quel cesso di giornale, un articolo col titolo Si bruciano da soli. Sì. Ora te mi devi dire, lui mi deve dire, che differenza c'è tra gli incendi sul Vesuvio e quelli che accadono in Piemonte? Non ho idea da chi siano innestati quegli incendi in Piemonte. Da chi ne sa, gli incendi piemontesi? Ma che ne sai tu? Da chi sono innestati gli incendi piemontesi? Ma che ne sai tu? Al contrario di quegli altri che erano fatti, come dire, apposta per guadagnarci poi sopra. Come no? Questi qua ancora non sappiamo. Non ne conosciamo l'origine. Lì non si conosce, qui si conosceva. Non conosciamo l'origine. Ho letto l'articolo. Parenzo, tu hai letto l'articolo su questo libero? Bravo. Non l'ho letto. Sì, è vero. Ripeto, non ne conosciamo l'origine di questi incendi piemontesi. Lì li ha conosciuti subito, Feltro. Lì subito. Beh, quella era una chiara derivazione locale. Era una chiara origine locale. Local. Ma è tutto chiaro. Una vergogna. Stasera vai a casa di Petri, ti vai a fare un bel bidet. Sì, non c'è dubbio. Pulisco anche il culo se vuoi. Non c'è problema. Non so che lo fai. Poi ti spedisco una letterina a casa con l'odore di con la merda di Feltri, così tu la odori e riesci a dormire meglio. Una cosa, no? Sì. Perché non dici le cose di Napoli che sì. fanno la differenza? È uscita una cosa. È che uscita, che cosa ora, è uscita? Ora la banalizzerai come fai di solito. Sì. Che cosa è uscita? Un'edizione, giusto perché Napoli un'edizione di che è una cosa? Delle città più in vista al mondo. Ci sì. vengono a fare serie TV, spot importanti. Ti dico sì. una cosa. Che cosa è uscita a Napoli? Un'edizione sì. speciale, unica al momento sì. in Italia. Unica, certo. Del Monopoli con Napoli, ah, certo, con le sì. città bellissimo. Di Napoli. Questo è una cosa fantastica. Ma c'è anche la prigione? C'è la prigione o no? Ci sono le caselle con la prigione in questo? C'è anche esci dal via, perché se feltri a piede libero possiamo stare a piede libero in molti di noi. Ma i soldi ci sono o no? I soldi ci sono o no? I soldi del Monopoli? Oppure li hanno tenuti, li tengono legati con le catenelle? Merda, i soldi ce li avevamo 150 anni fa, prima che venivano. No, ma è una domanda, un'edizione speciale. Come che hanno messo anche? Ma che hanno messo come cosa? Secondigliano? Hanno messo Secondigliano come? No, ma cosa hanno messo? Scampia, Secondigliano, come strade, come vie, come quartieri. Vergognati con queste allusioni. No, tu hai detto che hanno creato Monopoli. Una figura di merda. Stiamo dando lezione al mondo, ci stiamo riprendendo da quello sì, che ci avete tolto, i tuoi amichetti. Quello che ci avete tolto, dunque tu sei praticamente un nostalgico del regno delle due Sicilie, mi sembra di capire, dei Borboni, sì. no? Ma per me Garibaldi è un infame. Per me è peggio dell'Isis, peggio dell'Isis, Garibaldi, ti sei come dire, hai certificato, ma no, a me che me ne frega di Garibaldi, guarda, ma peggio dell'Isis. Bandito di Garibaldi, vedi, ti sei certificato, ti sei fotografato. Ma certo, au revoir, Hai sentito Aprile su Rai 2? Sì, come no, l'ho sentito assolutamente. Chi è la Bibbia? Ma che cos'è, la Bibbia? È la Bibbia? Io non credo alla Bibbia, però comunque... È storia infame. Isis, Garibaldi, au revoir, Gaetano, au revoir. Ti do una carezza e ti mando a fare in culo. Ciao. Ma la serata non è finita, perché c'è Mauro da Mantova che ha chiamato. Mauro, amico mio. Mauro. Dimmi, Mauro. Come si fa a dare torto a chi? All'amico napoletano. Qual è l'amico napoletano? La storia è questa. Sì, la storia che ha cantato lui è questa qua. Che sì, dopo non si voglia sovvertire un altro discorso. La storia è quella. Adesso sei diventato uno storico? No. Mi sono documentato. Ti sei documentato su chi? Su Garibaldi uguale all'Isis? Peggio dell'Isis? Del regno delle due Sicilie. Ah, tu ti sei documentato sul regno delle due Sicilie? E dove sì. sei documentato? Allora, quando c'era il regno delle due Sicilie, devi sapere che la prima ferrovia è stata creata al mondo. Sì, ma lo sappiamo, ma non c'è bisogno. Napoli, Portici. Ma non c'è bisogno che ce lo dici tu. Ma non è finita. Ma su cosa vuoi intervenire, Mauro? Su cosa vuoi intervenire? La capitale della tecnologia in Europa. Sì. Era Napoli. Ma che c'entra? La capitale della moda. Ma cosa c'entra? Sto delinquente di arrivare un delinquente, un criminale che andrebbe assassinato se fosse ancora vivo. Processato. Che è andato a ammazzare gente in paesi al sud. Avete matto paesi. Sì. Voi lo sapete. Poi? Che ha fatto delle cose in mare. Senti, posso dire una cosa, che è meglio che parli di figa invece di parlare di Garibaldi, scusa. Stasera mi chiamo una, tanto per cambiare. Ma chi? Certo, e io mi do da fare. Mica c'è un froccio come quello che hai a fianco che va a leccare i piselli. Volevo capire questo. Lo chiama, viene chiamato da una, non ho capito, si dà da fare. Chi è la sfortunata? Si sono concesse perché hanno gradito la mia persona. Ma non penso proprio. Volevano i soldi da te e basta. Quale si sono concesse? Perché quali? Cosa? Volevano solo i quattrini da te. Volevano solo i quattrini da te. Ma quali quattrini? Non ha una lira, sto poveretto. Appunto, vedi che sto coglione stavolta ha ragione. Sto coglione. Io sono talmente sgradevole alle escort e le ho trattate da signore. No, è sgradevole, sicuramente. Addirittura la domenicana mi ha violentato. Ti giuro che oggi mia figlia mi ha violentato. Mi ha sbattuto sul letto. Ma ti hanno sbattuto in una cella di massima sicurezza. Ma quale letto? E gli ho detto: sì, violentami, sono tutto tuo. Ma dove l'ha sognata sta roba? È un malato di merda che è Parenzo. Ah, così ha detto la escort. Ma neanche conosci la escort. Pure ebreo sei. e cosa c'entra? Ma che c'entra? Che c'entra? Che c'entra adesso? Devi tirare allora, fuori sempre questa cosa qui. Devi tirare fuori sempre questa cosa qui. Che c'entra? Cosa allora, c'entra? Cucciani. Quando sono andato l'ultima volta per quel discorso. Guarda che ti arriva la querelina anche a te. Ti arriva la querelina anche a te. No, ormai. Da Vito Monaco. Da Vito Monaco. Ero al. Ma chi è Vito Monaco? Chi cazzo è Vito Monaco? Non lo conosco io. Direttore di Canale Italia. Ma chi se ne frega? Canale Italia, Vito Monaco. Parenzo, li conosci questi qua? Te. Vito Monaco. Vito Monaco lo conoscevo, aveva già 80 anni. Aspetta, Mauro, fermo un attimo. Fermo lì. Resta lì, Mauro. Abbiamo con noi Maurizia Paradiso. Ascolta Cruciani, ieri sera a Maggiore sembrava un Tampax da infilarsi nel culo. No, aspetta, calma Maurizia. Ma non è che esatto, forse si sta un po' esagerando. Come stai? Non sto esagerando. Allora, ieri sera a Maggiore la Zanzara era vestito di rosso. No, la Zanzara, il grande fratello. Sembrava leca leca per vampiri. Allora, intanto è stato contestato da tutti. Allora, riconfermo l'idiota dal culo consumato. Sì, d'accordo, adesso questo qua lo riconfermo. Okay. No, perché l'ha detto una volta a noi, poi l'altro giorno ha fatto un'intervista a un quotidiano, la signora quotidiano... Non era uno solo, allora ero sul Giorno, sì. Ero sulla Nazione, sul Resto del Carlino, sul Messaggero, sempre gruppo. Ringraziando la Zanzara, mitici! Allora, io ti dico una cosa, cara Maurizia, perché ce ti l'hai posso da... passare una ragazza che è emozionata perché ma sto dove parlando, se ne frega. Ma dove sei? Ma dove sei? Scusami, dove sei? Sono in un bar, cazzo, dove mangio tutte le sere, dove faccio un pompino per mangiare. Adesso, ma questo, perché mi sa sempre dire queste cose qua? Io questo non capisco. Perché? Okay. Che bisogno c'è di dire sempre queste cose? Perché? Ascolta, ma quando Archimede disse datemi una leva e solleverò il mondo, intendeva il pompino. Sì, vabbè, questo può darsi. Sicuramente il sesso, il sesso è una leva importante nella, ma non possiamo nella società. Come posso dire, farsi dire delle donne che vi amano? Ragazzi, al mio tre, Cruciani vi amo, uno, due, tre. Una c'era, però c'era solo una, però non è che tu, ce n'è un'altra, dai, uno, due, tre. Ma non c'è nessuno, sono c'è emozionata. Ma chi è questa? Che lo sa che sei addosso se sei emozionata. Che cazzo ti devo dire, Cruciani? Scusami, aspetta, io ti amo, io ti succherei il cazzo. No, ferma. Allora io dico una cosa. Però io dico una cosa, Maurizia, stiamo molto calmi, sono le 20:44, dobbiamo concludere bene. Conosci il signore che si chiama Mauro da Mantova, tu, signor Mauro da Mantova, conosci il signor Mauro da Mantova? Non lo conosco, però se vuole venirmi a fare il giardino con il bastone col chiodo tira sulle foglie che stanno cadendo. No, io non posso pagarlo se me lo fa gratis. Bravo Mauro, vuoi andare a innaffiare il giardino della signora Paradiso? Scusa, guarda, è una persona molto simpatica. Ciao Mauro, testa di cazzo. Oh, finalmente. Ciao Mauro, aspetta che esco dal bar perché sennò faccio un casino troppo al bar. No, figurati. Ma in mezzo alla strada. No, ma il mio posto ideale è il marciapiede. Aspetta, c'è una signora. Quello sempre, quello signora, sempre. Lei conosce Cruciani della Zanzara? No, perché adesso si è scatenato con questa. Ecco, me lo saluta. A Cruciani ho fermato una signora in strada. Mi dice ciao Cruciani? Ciao Cruciani. Ma perché? Ecco, vabbè, però, scusami, aspetta, adesso calmati un attimo. Io voglio capire una sola cosa da te questa sera, Maurizio. Mettere una parola definitiva, quasi diciamo una pietra, sulla discussione che ci ha attanagliato, che ci ha occupato le menti nelle ultime settimane, certo. Che è quella di Weinstein, cioè i produttori porci, i registi porci. Adesso in Italia si è scatenato. Allora, aspetta, ferma lì. Adesso vi dico chi mi ha fatto molestie sessuali gravi nella mia storia televisiva. Adesso lo dico. Vai, diccelo. Già partita di quarta. Nel mio libro ho scritto: non è certo stata una buona domenica, è stata la domenica più squallida della sua esistenza, ma fortunatamente io mi chiamo Maurizio e ho più costanza di lui. E allora non ho capito. Vabbè, se non lo capisci sono cazzi tuoi. Sì, ma ho capito benissimo. Io non ho capito. Poi, quello si scopa tutto ciò che si muove. No, questo lo dici tu. Naturalmente noi prendiamo le distanze da questa roba qua. Però dà anche la lingua in bocca, è carino, ti dà la lingua, capisci? È carino. Cioè, quando Gambino mi chiamava in sala truco, signor Paradiso, venga. Cioè, io mi ritrovavo metri... di lingua di vitello in bocca. Va bene, allora, qual è, diciamo, la al di là di questo, qual è la... Ma non è stata una molestia vergognosa questa. Allora, io ho amato Walter Chiari, sì, ho amato questo Cogliazzi, lo sappiamo. Bello, vero. E poi ho amato Luca Barbareschi. Sì, ma è vera quella cosa lì di Barbareschi? No, non è vera, dai. Luca Barbareschi si arrampicava sugli alberi quando battevo al palco una vizza. Ho capito. Poi? No, ma io voglio dire, le molestie che hai subito anche tu delle avance o no? Hai subito? No, allora io ho subito... No, un giorno è arrivato un fax quando facevo colpo grosso. Un fax con la dicitura. La Paradiso, le cincina... devono venire a cena, sono invitati a cena. Io ho risposto, io non sono né in vendita né in saldo fine stagione, ok? Cioè tu non l'hai mai data per ottenere qualche cosa, non ci credo, dai. Ma non posso darla, non ce l'ho, amore. Ma voi siete tutti convinti con la figa. Ho sotto un cazzo di 23 centimetri. Vabbè, adesso mi sembra abbastanza, vabbè. Ma poi Parenzo lo conosce, me lo sono inculato. No, adesso questo mi pare anche questo. Ciao Parenzo, sto scherzando. Stasera è particolarmente frizzante. Ma no, sto scherzando, Parenzo, dai, siamo maggiorenni vaccinati. Va bene. Lo sappiamo. Anche Parenzo mi ha sempre aiutato, mi ha sempre voluto bene, a dispetto di tutti i pensanti di sto cazzo. Brava, brava. Beh, questo è per ben pensante. Posso dire qualcosa a Malgioglio? Ancora con Malgioglio. Ma gli hai detto, gay, ma perché? È la vergogna del mondo omosessuale, si dà del femminile e non ha saltato il posto. Lui è il suo cazzo di ciuffo bianco. No, adesso amico mio, ciuffo bianco era la cosa. Io voglio capire una cosa, Maurizia, perché ce l'hai tanto con Malgioglio? Che ti ha fatto Malgioglio? Ha messo la mascherina, presidio medico. Vabbè, questa medico, l'abbiamo già detto. L'abbiamo presidio già detto. Medico chirurgio. Ci ha profanati a noi malati di cancro con la sua idiozia. È un vecchio. Ieri Corinne Clerilli ha dato del vecchio anziano e ha avuto ragione. Vabbè. Allora, probabilmente il vecchio anziano è in andropausa e non si rende conto di quello che fa l'idiota. Sì. Ti abbraccio, Maurizio. Ti abbraccio, Maurizio. Ciao, ciao, tesoro. Io ti abbraccio e ti inculo. Ciao, ma sì, vabbè, quello è meglio di no. Mauro. Mauro. Che ridere. Che ridere. È contento, il poveretto è contento. Vedi, il suo livello è contento. Che c'è un fraccio. Ascolta, ma perché? Si riaccende subito, sto poveretto. Sto poveretto. Stamattina ho sentito Luca Barbaresi, no? Intervistato. Ma la dentiera è una dentiera che lo fa parlare così? Cioè, come mai parla così? Perché è la dentiera. Coglione, ti ho detto che voglio parlare con te? Io con gli ebrei in merda? Con gli ebrei in merda non parlo. Ma ancora, perché ti devi fare denunziare per questa cosa? Perché devi dire ebrei di merda? È una cosa assurda. Non, allora, non è che dici, che ne so, allora, cattolici. Quello che volevo dire prima, che mi ha interrotto, cosa era, sul treno, era sul treno. Sì, era conosco una bella ragazza musulmana marocchina. Era stupenda. Allora? Stupenda. 19 anni, ne mostrava 25. Gli ho detto, cavolo, io, ma sembri, cioè, sei stupenda. Ho detto, ma con lei 25 anni? Fanno 18. Cavolo, io, oh, vabbè. Allora, parlando così, ho detto, ma è vero che ci sono ebrei in Marocco? Sì, ci sono. Ma non fanno gli stronzi come lo fanno qui in Europa. Ma perché? Perché là comandiamo noi musulmani, noi ebrei. Ma che c'entra, scusa. E soprattutto mi ha detto, quando noi vogliamo insultare uno, sai come facciamo? Oh, taci, ebreo! Ma cosa vuol dire? Bello. E secondo te perché? Perché? Perché probabilmente hanno una nomina che non è delle più belle. Una nomea si dice, non nomina. Una nomea, nomina arriva. Allora, provate a chiedere la striscia di Gaza. Come lo pensano degli ebrei? Ma che c'è? Ma certo, ma si sa. Ma si sa. Ma si sa. Si conosce questa cosa. Sono buone persone? Vabbè, d'accordo. Mauro. Ascolta. Puoi dirmi il contrario? Puoi dirmi il contrario? Mamma mia, ancora. Fermi tutti. Rotto questo. Mauro. Disco rotto. Contrario, è così. Mauro, au revoir. Au revoir. Ragazzi, a domani. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Oh, senti, il camion. Come fa, trombe, come fa?